A dove? Ah, eccolo. Assaggiamo il secondo vino, che è Terra d'Arco Iris. Così adesso Paola viene qua, che ci racconta questo bicchiere. Dai il microfono. Ci dice bene le uve, le percentuali e poi cosa... Grazie. Sì. Paola, questo è il tuo. Ah, grazie. Beh, le percentuali sono quelle di cui vi ho parlato prima, cioè 90% è sangiovese, fermentazione naturale per circa 8 giorni. Questo è stato messo in bottiglia nel febbraio del 2011, quindi ha fatto circa un anno e quasi due, insomma un anno e 9 mesi di bottiglia. Sì, ricordiamo che è vendemmia 2008 questa. Questa è una questo è il nostro Chianti base. L'etichetta gialla rappresenta il nostro Chianti base, però è andato in bottiglia nel febbraio 2011, quindi ecco. Ha i suoi tannini battaglieri, come li ha definiti una guida, come tutti i nostri vini. È un vino che si può bere esclusivamente a pasto, cioè i nostri vini non vanno bene da aperitivi. Ci vuole una bistecca fiorentina. Alcuni, devo dire, per esempio il nostro 2009, vanno molto bene con i salumi, ma in linea di massima questi sono vini che puoi gustare veramente se hai un cibo pesante, come pesante il cibo toscano secco. Per esempio gli arrosti devono essere arrosti secchi, non arrosti con dei guazzetti, delle... assolutamente. Come? È una bella chianina, ma anche un arrosto di pollo, anche noi lo beviamo per esempio anche mangiando pesce, certo, però dipende quale pesce e come cucinato, cioè arrosti secchi, cioè quello che si può immaginare è tutto quello che poi non abbia intingoli. Per esempio mio marito è dell'Alto Adige, quindi fa un goulash meraviglioso, ma se volete uccidere il nostro vino, bevetelo col goulash. E quindi quando Walter fa il goulash non vi chiediamo cosa bevete. Dei vini dei nostri colleghi. E pensiamo a loro e diciamo: ma come sono bravi ad accompagnare il nostro goulash. Sì. E questo vino ha avuto 18 mesi di legno di rovere grande. Qui non c'è barrique. Allora, ora vi dico una cosa molto strana, ma è così: noi facciamo anche succo d'uva. La cosa buffa che ci è successa è che imbottigliando del succo d'uva sembrava barriccato. Il succo, appena noi non spremiamo l'uva, cioè noi facciamo il succo dal fiore dell'uva, cioè viene praticamente deraspata e pressata leggermente l'uva nella deraspatura, 12 ore dopo viene spillato il liquido, imbottigliato, pastorizzato. Allora, quando noi ci siamo resi conto che il vecchio vigneto ci dà dell'uva che ha già dei sapori, dei profumi di barrique, ci siamo guardati e abbiamo detto: a chi lo racconti che noi non utilizziamo né chip né niente e questo è succo? È il succo, non è un vino. E quindi, per esempio, molti ci dicono: ma come qui non c'è barrique? No, non c'è barrique. Cioè, quelli sono aromi delle nostre uve, non sono aromi aggiunti. Questa è una cosa molto strana, ma se poi uno assaggia il nostro succo di uva o le nostre uve direttamente in campo, se ne rende conto. Ecco, oltre... i tannini che ci sono non sperate che diventino più maturi nel tempo. così sono e così saranno fra 5, 6, 10 anni. Cioè, leggermente si arrotondano, ma insomma è più, secondo me, relativo alla propria bocca al momento dell'assaggio che non al vino, secondo me, però. Ma com'è nata questa l'idea di un consulente francese? Ma questa non è nata, è stata una cosa abbastanza fortuita. Era il consulente di Peter Riegel. Peter Riegel è uno dei più grossi importatori, distributori di vini biologici in Germania. E lui era il consulente di Peter Riegel e una nostra amica, Fiammetta Inga Podere Marella, che fa vini bio anche lei da tantissimi anni, ci ha presentato Jean. Jean Natoli è una persona meravigliosa anche a livello personale, cioè voi pensate che il suo intervento comprensivo di un'analisi mensile su perlomeno 10 campioni di vino, analisi totale, noi non spendiamo mai più di 2.500-3.000 euro, con due discese e venute in azienda, un'intera giornata di lavoro due volte l'anno, venendo dalla Francia. Cioè, ci tratta veramente da amici. Siamo un po' disobbedienti perché quando lui ci manda le ricette poi non lo facciamo. Allora ogni tanto si arrabbia e ci dice: allora ve lo bevete voi. I nostri clienti se lo bevono volentieri, perché lui vorrebbe deacidificare, lui vorrebbe appunto tutte queste belle ricette, per cui spesso un enologo, se non te le dà, pensa di non aver meritato la sua parcella. Però forse anche per voi il fatto di avere comunque un contraltare, di avere comunque questa voce, non so, Walter me lo dice sempre, no? Cioè io magari me li tengo tutti i fax che mi manda, certo, mi dice, certo. Magari poi sì, non è che faccio quasi mai quello che, certo, dice, però se non ce l'avessi, guai, dice. Certo, non solo, vi dico questo, questo vino, Walter ha fatto un imbottigliamento di 30 bottiglie o 40 bottiglie senza solfiti, prima di aggiungere i primi solfiti, quindi ha fatto queste bottiglie ad agosto del 2011. È stato sbagliato il tempo di imbottigliamento, è stato imbottigliato nel 2012, mi sono resa conto ora, e vedremo come si comportano queste bottiglie che solfiti non ne hanno avute affatto. Però prima vogliamo portarle un po' in giro per l'Italia, quindi magari faremo una vacanza e vedere come le si comportano un pochino, in modo da vedere. Però diciamo che ecco, sicuramente avete, diciamo, un consulente enologico che non è la figura dell'enologo classica, ecco, no, questo volevo dire. No. Anche perché anche appunto, torno a dire, uno con Walter, che poi è lui il vignaiolo, è lui che fa il vino, con lui è molto difficile convincerlo a fare diversamente da quello che lui sente. Cioè è un disobbediente proprio, anche se non discute, non è polemico, quindi non confronta. Lui ascolta educatamente, poi fa come gli pare, da sempre, su tutto. Quindi probabilmente avere l'enologo francese con cui fare il minuetto, l'enologo gli dice di fare così, lui gli dice di sì e poi fa come gli pare, è una cosa che lo rassicura. Beh, insomma, questo è... Ah, qual è allora, lo scopo delle analisi? Allora, siccome quando tu tieni i vini in cantina per molto tempo prima dell'imbottigliamento, uno delle cose molto importanti per quanto riguarda il Sangiovese è diciamo lo sviluppo dei batteri che possono svilupparci. Tra questo c'è il Brettanomyces, che è sempre allerta, nel Sangiovese è una cosa bestiale. Il Brettanomyces si sviluppa, non si capisce bene ancora tutt'oggi come, ma si tiene a bada o con le solforose o con una estrema pulizia e con delle condizioni anche della cantina, che possono andare dalla temperatura, Sostanzialmente però non si sa. Allora, tenere sotto controllo vuol dire la volatile, ma sai, la volatile una volta che è passato, vini come questi, una volta finita la fermentazione e la malolattica, è difficile che cambi la volatile. Però può cambiare, che ne so, per esempio un vino può anche rifermentare, cioè avere dei residui zuccherini minimi, cambiando la temperatura, cambiando la situazione, essendo poco protetti di solforosa, può per esempio ripartire una fermentazione e ti può far casino. Quindi mandare, per esempio, quando è il momento di fare un travaso, non basta sentire l'odore, perché a volte un vino è lì da un po' di tempo, è stanco, non ha bisogno di un travaso, attraverso un periodo. Quindi far fare le analisi continuamente. Allora, in che consistono? Dall'acidità volatile, l'acidità totale, la solforosa. Lui fa sempre anche polifenoli, cioè l'analisi comprende tutti quei titoli che sono in parte variabili, in parte una volta che è finita la malolattica raramente cambiano, però lui ogni volta rifà, perché ha tarato una macchina che è anche, tra l'altro, diciamo tra virgolette, un suo brevetto, che ti dà tutti i valori, anziché dover fare le singole analisi, con una sola analisi a lui gli dà tutti i valori, impostando dei parametri di base, per cui devi conoscere bene la cantina. Quindi è un tipo di macchina che può essere utilizzata solo con dei clienti fissi. Ecco, diciamo che detto così sembra una cosa abbastanza complessa e macchinica, appunto, no, che magari contrario. Però in realtà non lo è, in realtà è una cosa molto semplice, che semplicemente è un aiuto, diciamo, che la tecnologia può dare in una cantina gestita, io l'ho vista, l'ho visitata, in maniera completamente, posso dire questo termine, abusato, naturale. Sì. Assolutamente.